La donna nel pollaio. 28 maggio. Vidi una donna nel pollaio che cercava su un mucchio di sterpi. Io pensai che fosse una mendicante e andai da lei. Lei mi venne incontro alcuni passi e sparì di colpo nel nulla. Il pomeriggio mi venne incontro un uomo con un fastello durante la corona delle cinque piaghe, pareva una caparratore. Alcuni passi davanti a me di colpo sparì. Vidi nuovamente le due donne inginocchiate in chiesa. Poi venne una donna vera nel medesimo banco. Poiché c'era poco posto, potei vedere benissimo che le due figure erano come velo e non occupavano spazio. 29 maggio. La donna era di nuovo nel pollaio, ma per poco.